un'altra cosa, si fa appunto con un altro letto, perché mi sta prendendo male. Che paranoia, bobo, odio l'inverno. Così bello stare a calduccio a casa. Ma tra noi dopo alla fin fine. Quello c'è vero. Non ho nemmeno riposato, Giovanna. Non ho nemmeno riposato. Qui c'è una monotonia qua, in questa zona qui, che è in campagna, che fa solo paura a vedersi. Avverte. Micidiale. Basta da sei in città. Ma perché città non è meglio, è tutto quanto scavato, un casino. Guarda, io avevo andato mio fratello, ci ho denunciato, poi ho trovato buchi, tavoloni, avevo fatto la pizzeria, è un casino nero. Cava, cava. C'era la pizzeria? L'università. Non la conosco. E tu cerchi una pizzeria piccolina, Little, qualcosa è lui, e fa, per me è veramente buona, anche le pizze. Ma il taglio la fa? Taglio anche il tonde. Con la gomellina alzata arrivavi 9,5, senza gomellina adesso ho schiacciato il pulsante giusto, vado un po' a vedere se il segnale ci sta arrivato. 9,5. Stato adesso così. Prima era 5, adesso è 9,5, lì non c'è segnale. Io sei dal cambio o dalla macchina, no, dici? Se tu la fianca al cambio, il cambio c'è una valigia grande e grande, io ho la scatoletta di fiammiglio della sardina. Cristo. Avevi lo stesso segnale del camion con l'attacco. Allora non stanno i fatti giusti lui. Oh, già te. Dimmi, dimmi. Ha già fatto il volume della notifica della macchina. 9,5 sempre sì. Cos'è fatto adesso? L'ho abbassato un po', dai. Comunque la radio nel penultimo passaggio era pure satura, non satura ma compressa troppo. Così è meglio, devo segnare di nuovo il commento, dai. Esatto. E ora sto partendo. Beh, in definitiva, che cosa pensi che sia? Non sta dando tanti watt quello di Palmetto. Oh già, non lo so, non so cosa dirti. E se arriva con questo segnale, uno ce n'ha uno più potente, l'altro ce l'ha più basso, c'è poco da capire. Se uno ha, non da tutti i vate che deve dare, oppure c'è qualche cosa, l'antenna. Qualcosa l'antenna, già non fa adesso, c'è l'antenna che non va, già un'estate di stazionaria, hai capito? Un'estate mi dà. Sei riuscito a passarla? Non glielo so, tanto c'è la nuova, deve mettere la nuova e allora non ho toccato nulla. È casino. Strano, sono stazionario e la massa che non è fatta bene. Controlli la massa o mettili in un esterno a vedere se è quello lì. Non lo so. Non lo sappio, così comunque va meglio, se cambiava la. Ha messo al massimo come la prima, cioè la macchina è morto che. Se cambiava perché è il minimo che ha abbassato, se abbiamo la portante. Ma come stavi usando? Quello il 746? Un negativo. Uno che quasi come quello che hai visto tu, la stessa potenza che hai visto tu in garage stamattina, che ti ho fatto vedere quello là. Cavagava. Dai, prima un attimino che saluto qua nel palo, dai. Scusa, come mai non funziona il 30? Cosa ne so qui? l'avrà collegata. Vediamo che è Gigino allora, dai. E Gigino da qua, qua. Ti senti io di splatter, no? Se io per dire torno indietro, l'altra cosa ti sento di splatter chiamando. Però se vado sul presa non ti senti. È compiato. E gli ha già, ti ho copiato, però strano. Ma non so, se vuoi riprovare, riproviamo, fa, ma... Ti ho chiamato, tu a me mi senti chiamando? Ah, mi ascolti, sto chiamandoti. Ah, guarda. Sì, sì, sento Franco. Ehi, Gianni, comunque c'è qualche problema allora qua, dai. Gli altri canali trovati, Gianni. Vado dall'uno, a vedere, fino a quanto arriva. Sì, però una volta che mi senti ci passiamo al 2, capito? Sì. 2, 3, 4, 5, 6, 7, da me. Sì. 2, 3, 4. Sì. 2, 3, 4, 5, 6, 7, da me. Sì. Mm. 2, 3, 4. Sì. Mi sono deciso di prova 24. Guarda. Sì. Sento più perché c'è il canale di sotto, allora. Dal 24, dal 23 al... 34 praticamente sono tutti i canali di sotto. Così. Ma qua. Allora il 24 arrivi. Allora passa 24 sotto, eh? Non so qual è il 24 sotto, non c'ho frequenzimetro. So che adesso ho 24 e poi non so dove sono, capito? Franco. Il 21 passa. Nemmeno sotto. E dove sono questi canali? Dove va? Ah, professore gioco, magari deve regolare di frequenza, non lo so, non so. Ho provato a andare sotto e non ci dici. E vedrà, glielo dico a Luigi allora, c'è qualche problema che non va qua. Oh, non lo so cosa dirti. Magari o si è dimenticato il frequenzimetro e controllarla. Luigi, no, che li mette in frequenza, dopo che fa questi cambiamenti li mette sempre in frequenza. Aspetta un attimo, adesso io stacco questo e vado con l'ala 68, dai. E riproviamo tutti con l'ala. Ehi. Frank. Gianni. Ehi. Proviamo a questo a vedere. Yeah, passa dall'uno in più come abbiamo fatto poco fa. No. 4, 5, 6. Sì. 2, 3. Prova che non ce l'ho fatto andare. 2, 3. Sì. 4, 5, 6. Sì. Cava. A me. Yeah. Vorremmo rimanere qua, andiamo là. Ma restiamo qua che entrano tutti qua, c'è gente che non ce l'ha il canale di Gappicato. Questo lo metto in macchina adesso, già, questo qua. Yeah. Ma quello lì va benissimo. Una bella radio, potente, una bella... è fatto bene. L'altro, bisogna vedere per capire come... So già, questo va bene comunque. Scappa. Che la radio è bella, no? Sì, puoi provare con Gigino a fargli l'ascoltare. A Gigino glielo dico domani. Probabile che lui l'ha cambiato quel pezzo lì e non l'ha fatto la taratura su quella frequenza. Sì, è capace. Che non esci per niente. Però se io torno indietro con i canali, ti sento di splatter chiamando, capito? Però se vado sul canale dove chiami non ti sento per nulla. Casino, Ed. Non te l'ha fatto bene sicuramente. Boh, vabbè, glielo ridò e me lo faccio ricontrollare. Qual è il problema? Va. La radio esce bene, gli altri canali è una bomba, da benissimo. E come è fatto, come è tutto. Che faccio c'è una fesseria? Mi metto la 68 in macchina, a me piace di più. Io. Va capo. Ascolta, 68 non l'ho provato con quell'M300 a vedere come va già. Prova. Aspetta. Anni. Ai Cristian, questo microfono, bello. Già, questa radio. Normale. Il microfono, dai. È normale, dai. Non è amplificata. Questo è il telefono originale. Avvicinati parlando, perché sennò attaccatela alla bocca, perché voglio sentire com'è, perché tu ce l'hai lontano e non si sente bene. Mi stavo seguendo sui canali a vedere come usciva anche io. Te ne sei accorto? Sì, stava sul 21, 25 non c'era, non c'era frequenza. 24, 25. Ho messo la scansione automatica, non l'ho trovato. Probabilmente c'è qualche difetto. Quello che dicete voi, io ci arrivo. No, non tu. Leggete che non è. Sì. Come con questo microfono? Una bomba. Va bene. Guarda che la faccio già. Così meglio va. Va benissimo, va benissimo. L'altra è più grossa, l'altra faccia troppo metallica. Va bene. Via. Te la fa anche più grossa. Sto contento, va bene anche la da 300 qua, quindi anche la prolunga, già, lo lascio con la prolunga. Molto bene questo microfono. Cristian, cosa dici tu? No, ma segna un attimino. Vedi un po', Cristian, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfetto. Com'è? Va bello, bello. Vabbè. Pagato. Però. Tu che hai sposato il microfono. Radio perfetta. Se ti interessa non bevi più 5. No, non mi piace. Piace? Perché da tavolo non riesco a usarlo. Ma neanche uno da palmo in vendita. Adesso vedo che tieni qua a prendermi un microfono serio, ho deciso di comprarlo. Da palmo però sempre. E questo qui è serio da palmo, questo che c'ho io. È diavolo rosso, non so se sia serio. Non so che sia, l'ho già visto. Costa 70 euro. Lo so quanto costa, lo so. È uno dei forse più costosi che esista. Ma anche uno dei più buoni che esiste però. Esce forte, in macchina non fa perché in macchina si prende tutto quanto il rumore del vento, perché è un mese sensibile, ma in casa. Ui. No. Questo è un microfono con l'antirumore, capito? Quelli strani. Questo ce l'ha l'antirumore, ma non vale a nulla. No, guarda, mi sembra che abbia in un cassetto nascosto un F-46, mi pare, ma... Cavagaro. Sono up and down pure sto qui. Io dai, riprendete, vado a mangiare qualche cosa che c'è un po' di fare. Ti ho leggiato in grassi, a mangiare. Ma purtroppo io devo... Ma non sento quando devo farlo, capito? Se no non mangio, non ti preoccupare, io tengo alla linea, però se non le puoi fare a meno, se ti senti male perché hai mangiato poco, sei da ragione. Allora, per ferroviaria, vedete? Cosa, quello che è tu, lo so. Chi è che ha detto la linea ferroviaria? Certo momento, che tu capisci la linea ferroviaria. Chi sei tu, firma? Non ne so io chi sono, uno che dei nulla. Poi Bacchisio. Non ti ho riconosciuto. No, siccome ti mi sembra un peccato, non mi vuoi stare a fare la battuta sicura. Ma chiama, ciao Bacchisio, mi sentito, ben entrato con la tua battutina. Ok, ciao anche a Cristian e l'altro non so chi sia, buonasera anche per lui. No, sei stato così, stiamo ascoltando. Siccome sta ascoltando con un vecchio 32 anni, o anche 34, ho capito, e l'ho acceso, invece funzionava e funziona. E a Vulga, cos'hai, che apparecchio è? Il faccio 123A. K. Via. Nel periodo dell'HB23, quello lì. Ehi, in quel periodo lì è nato in quel periodo. Vabbè, anche io sto parlando con un apparecchio vecchiaera, Questo è quel quarzato, questo non ha nulla, quello è tutto quarzi. Questo qui è Galassi Saturnecco. Questo c'è un difetto, insieme a te mi porta una radio straniera. Come? La tua modulazione mi porta una radio straniera. Sarà la mia amante che sta parlando. È strano, forte, io forte. Vediamo un po' se adesso te la porta. Così te la porta la modulazione. Sempre. Sul fondo te la porta sempre, la copri un po', però la sento lo stesso. Che strano. Ma dobbiamo essere l'antenna nuova, ma l'antenna vecchia sempre. È sempre andata, in realtà è l'antenna. Boh, ci avrà 22, 23, 25, non lo so. Ma sono anch'io più quanto tempo ha. Fare da pezzi. Che è la stazionale come sta? B1. Lo pensi che non sono buoni, no? Perché non le antenne, Sì, la mantola così. La mantola 1. E il cavo, cambiato mai là? Il cavo non l'ho mai cambiato, c'è sempre RG8. Avevo quando ti sono fatto, l'avevo messo l'RG8, l'ho mai cambiato. L'ho guardato l'altro giorno a vedere quello che ho buttato sul tetto, siccome prima è alta 20 o 12 metri era alta, e dunque capo sul tetto ce ne ha rotolato. L'ho guardato e detto, se l'avrebbe bruciato il sole, l'avrebbe messo ieri. Sì. Quel capo lì è buono, no, io ce l'ho reggi 58. No, grazie a Dio va bene. 58 ancora, no, 58 ce l'ho in campagna. Ce l'avevo quello della Grand Plain, l'avevo tolto, tolto la Grand Plain e ho tolto anche il capo, e l'ho portato in campagna, ce l'ho in campagna quello lì. No, ma io a casa di Roma avevo 20 anni, mi ci posso fare la mamma ha problemi. Era buono, e prima facevo roba buona. Adesso quello l'ho reggiato di adesso, poi si spetta subito, si brucia. Così è. Sì. Ma adesso sta andando molto 213. Ma il 213 è buono lo stesso, anzi, ti trovo che è super buono. Però bisogna vedere che è riuscito a fare la causa, le rivestimento, quanto è durata, perché quello vecchio, se te lo faccio vedere, stacco, lo arrotto, ma ti dico che è nuovo, tu te lo compri come nuovo. Ci credo. E prima le cose erano fatte meglio, c'è poco da fare, ma erano fatte diversamente, non erano fate così alla mena futu. Ma buona, Cristian, riprendi. Ciao Marchisio. Ah, ciao Cristian, buonasera anche per te. Sto trovando questo minicocco, sia noto, ma ancora ce la sente. E pensavo che non andavo, quando la c'era stasera, tu questo non andavo più, invece no, cammina ancora. Ecco, ecco, a voi, Marchisio. Se fosse il piatto di radio, bisogna che cambi il baracchino. E dai, un attimino che cambio, perché questa radio che sta entrando mi sta rompendo adesso. Mi sa la mara sul piede. Ma come la radio entra? No, mi entra una radio privata sta entrando. Cambia, non sono qua frequenza io, dai. La lineare. La lineare deve essere. È strana. Sono capabile. Anche noi adesso ci dobbiamo risarcire, come fanno gli altri con lui, quando ci disturbano gli altri ci dobbiamo risarcire noi. Sto giusto, bisogna avere il pugno di ferro, vogliamo essere risarciti perché qui è radio privata e non va bene. Ehi, ragione. E garasonti? Mamma mia, ma di schiaccio, porta. Perché te lo dici, ragazzi, per Paolo lo stesso, se ne è periodo. Non ho fatto niente oggi, sono sotto giù a letto. Ma cosa pretendi? Sei mandronetto? No, Gissi, oggi mi spetta. Non sono un po' mandrone, C'è ancora, vado, la mazza è qui. Vai, mandica.